Tutto è già qui. È un bel titolo, da cinema. Ma voi direte, ma che significa? Che intorno a noi abbiamo già tutto quello di cui abbiamo bisogno? Tutto è già qui. E qualcuno penserà, ma è una sfida? Stai dicendo che dovremmo smettere di avere desideri? Oppure che forse ne dovremmo avere di più? Proprio perché qui i desideri si realizzano. Tutto è già qui. Ma se abbiamo già tutto, come mai continuiamo a vivere con un perenne senso di mancanza? Per capire perché tutto è già qui, vi racconterò una storia. La storia di Adriana. Adriana ha 26 anni, pattinatrice da sempre, da ancora prima di venire al mondo. Mai un allenamento saltato, mai una gara rinviata. Il suo sogno? Le Olimpiadi. Maggio 2014, allo svincolo della 1, uscita Firenze Sud, un furgoncino prende in velocità la sua auto. Nello schianto, la gamba sinistra di Adriana resta incastrata tra le lamiere. In ospedale decidono di amputarla. Tutto muta velocemente. Dai sogni alla quotidianità. Adriana inizia a vivere una storia che non è più la sua. In realtà la sua reazione è immediata e forte. Dopo 3 mesi riesce a camminare, dopo 6 a correre. Ma pattinare, quello ancora no. Ad un occhio esterno, Adriana non sembra neppure disabile. Oggi è iscritta a 5 corsi in palestra. La palestra è diventata la sua seconda casa, ma i suoi sogni si sono spezzati. Un giorno come tanti, nello spogliatoio della palestra, Adriana sente parlare di un libro, anzi, una trilogia di libri. Questa donna, vicina ad Armadietto di Adriana, ne è affascinata. Descrive l'autore come colui per cui tutto è possibile. Ed il libro come il manuale per una nuova vita. E da quando Adriana non pattina più, ha molto tempo per leggere e decide di comprare il libro. E già dalle prime pagine, Adriana capisce che quella lettura non sarebbe stata semplice. Già dalle prime pagine comprende che quella è una sfida. Infatti, quel libro trasforma la realtà. Quel libro trasforma qualcosa che solo fino a qualche istante prima era possibile, solo ed esclusivamente nella mente di Adriana. È una trilogia piena di tecniche, di strumenti per far sì che tutto quello che fino ad un momento prima era solo nell'immaginazione diventi vero. Adriana si mette subito alla prova, lei che dopo aver perso una gamba e insieme a quella tutti i suoi sogni, non aveva nient'altro da perdere. Sceglie di fare pratica delle diapositive positive, ovvero inizia a mettere a fuoco nella sua immaginazione quello che desidera essere, diventare, raggiungere. E inizia a farlo quotidianamente. Prima si immagina più rilassata insieme agli amici, poi si immagina in palestra a sostenere la sua squadra di pattinaggio. E poi ancora vede i suoi progressi in palestra, fino a quella protesi, quella con il pattino annesso. E a questo punto succede qualcosa. Succede qualcosa di magico. Succede che il mondo inizia a prendersi cura dei sogni di Adriana. Quel libro lo conosco bene. E Adriana risponde: non avevo mai incontrato nessuno fino ad ora che lo avesse letto. Non è certo una lettura semplice, non tutti sono alla ricerca di una trasformazione. E Adriana risponde: e non tutti sanno di che cosa sono alla ricerca. Piacere, io sono Laura, e tu come ti chiami? Piacere, Laura, io sono Adriana. Ciao Adriana, è da poco che vieni da leggere qui? Da qualche settimana. È un ottimo posto per le mie visualizzazioni quotidiane. Seduta in un parco, incontra Laura. Laura che ha letto la trilogia della trasformazione. Laura che spiazza con le sue frasi sagge. Laura, lei, una perfetta sconosciuta, alla quale però per la prima volta Adriana racconta il suo passato, la sua storia, i suoi sogni. Alla quale per la prima volta racconta del suo sogno più grande, le Olimpiadi. E Laura si propone di allenarla, perché Laura è un'ex pattinatrice olimpionica e decide di addestrare Adriana alla vita. E Adriana sceglie. La scelta è il primo passo verso la trasformazione. Scegliere all'interno di un'infinita possibilità quello che noi vogliamo, quello che noi desideriamo. È come il principio di tutto, è come la prima nota, il primo passo, il primo appuntamento. Scegliere così è l'inizio di un viaggio. Scegliere una meta significa dare da quel momento in poi una spiegazione ad ogni evento, situazione, incontro, ostacolo, opportunità della nostra vita in chiave del nostro obiettivo. Scegliere significa ritornare a noi, al motivo per il quale sentiamo di essere venuti al mondo. Scegliere vuol dire permettere al mondo di darci quello che desideriamo finalmente. Sarà questa scelta che trasformerà il nostro sguardo sul mondo. Adriana sceglie e sceglie le Olimpiadi. E prima di iniziare questo addestramento, Laura le presenta un contratto. Un contratto che Adriana dovrà firmare. Oggi, 25 novembre 2015, io, Adriana Sernini, accetto di essere allenata da Laura Steiner e di attenermi a quanto segue. Accetto che questo non sia un allenamento come tutti quelli svolti fino ad ora. Accetto che questo sia un vero e proprio addestramento alla vita. Sono consapevole che il mio corpo non risponderà solo agli stimoli della mia mente, ma anche e soprattutto a quelli della mia immaginazione. Mi impegno a rendermi responsabile di tutte le immagini che sceglierò di introdurre nella mia mente, perché queste immagini verranno in automatico assorbite dal mio corpo e dalla mia vita intera. Mi impegno a scegliere la linea della vita in cui io e le Olimpiadi ci incontreremo, come se fosse stato scritto da sempre, come se non ci fosse altra scelta al di fuori di questa possibilità. Non starà a me a chiedermi come tutto questo si verificherà, come tutto questo sarà possibile un giorno. Mi impegno a non farmi domande di questo tipo mai. Non dovrò darmi scadenze, non dovrò darmi domande su come una pettinatrice con una protesi possa arrivare a questo traguardo. Accetto di occuparmi solo della preparazione e di essere pronta quando l'opportunità arriverà da me. E quando l'opportunità arriverà da me, mi impegno a dire sì. Accetto l'idea che tutto è già qui. Accetto di allenarmi ogni giorno sentendo che tutto è già qui. E mi impegno a fermarmi solo quando avrò preso tutto, ma proprio tutto, e non solo una parte di questo tutto. E che il viaggio abbia inizio. L'addestramento di Adriana si concentra su un qualcosa di veramente poco intuitivo ma di molto efficace: abbassare l'importanza. Nello specifico, Adriana dovrà abbassare l'importanza circa l'immagine che ha di sé, perché Adriana ha una paura fottuta di cadere e Laura le insegnerà a cadere. sempre, ripetutamente. Adriano dovrà abbassare l'importanza circa l'obiettivo finale, perché lei intende fortemente arrivare alle Olimpiadi e Laura la costringe ad avere un altro piano A, e il suo piano A è divertirsi. E poi Adriana dovrà abbassare l'importanza circa i mezzi da utilizzare, perché ha vissuto tutta la vita pensando che una vera pattinatrice debba saltare sempre per vincere le gare. E Laura le farà vedere che è possibile anche il contrario. Ma che cosa significa abbassare l'importanza, vi chiederete voi? E allora potremmo riassumerla poeticamente così. Vi sarà capitato di innamorarvi in modo inaspettato, di ottenere qualcosa quando meno lo avreste pensato, almeno una volta nella vita, di raggiungere un traguardo in modo fortuito, di aver fatto la cosa giusta dopo aver agito d'intuito? Ed in tutti in questi casi non l'avevate certo premeditato, di poter arrivare in modo così disinvolto ad un grande risultato. Perché il segreto più importante per realizzare i desideri è qualcosa che non avremmo mai immaginato. È un qualcosa che non faremmo certo volentieri, qualcosa che nessuno ci ha insegnato. Il segreto è abbassarne l'importanza. In buona sostanza non dobbiamo pensarci troppo, non dobbiamo farne un'ossessione, non dobbiamo controllarne la riuscita. Ed ora penserete, ma è un paradosso. Se mi distraggo un attimo imbocco la via d'uscita, oppure perdo l'orientamento e non faccio più quel che posso. Ma un segreto non deve essere per forza coerente. E questo segreto è così ripartito. Esprimete il vostro desiderio e poi divertitevi. Questo segreto è potente se diventa un rito. Ammettete ciò che volete e poi distraetevi. Andate dalle cose belle che vi fanno godere la vita. Da queste cose abbiamo molto da imparare, perché in queste situazioni è lì che ci lasciamo andare. In buona sostanza, questa è la via d'uscita. E come andrà a finire la storia di Adriana? Beh, tutto è già qui, è un bel titolo. È il titolo di uno spettacolo. E nello spettacolo verranno svelati i dettagli dell'addestramento. Perché tutto è già qui parla di come trasformare la realtà, quella di Adriana e di tutti coloro che assisteranno all'evento. E tutto è già qui andrà in scena il 25 di novembre al Teatro Trastevere. E la mia domanda ora per voi è, non tanto come andrà a finire la storia di Adriana, ma piuttosto la nostra di storia, come andrà a finire?